Conte, how are you? Sto bene, grazie. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Bene ragazzi, diamoci una botta di vita perché questa sera c'è Germania-Italia, un grande classico del calcio mondiale, è amichevole, Allianz Arena, un luogo che ci rimanda indietro a qualche giorno, cioè a quella brutta notte della Juventus, però tanto vale viverla questa notte con gli azzurri, che sarà importante in prospettiva europea, una delle ultime prove generali. Con Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Federico Bini in redazione, già ci siamo scatenati nei pronostici. Invito anche voi, 800 24 00 24, numero verde. A me, devo dire, al di là dei pronostici, piace tantissimo l'idea del tridente che vedremo davanti, cioè Zaza, Insigne e Bernardeschi. Insigne irrinunciabile, Zaza confinato sulla panchina della Juventus ma con una voglia matta di esplodere tutte le volte che Allegri lo fa giocare, ciò avviene quasi puntualmente, e Bernardeschi che è una delle facce più belle del nuovo calcio italiano. Sentiamo qualche voce, eh? Va bene. Allora, Conte, su come giocheremo questa sera all'Allianz Arena. Abbiamo messo proprio questi due test per vedere un pochettino anche la risposta di alcuni ragazzi anche molto giovani che hanno poca esperienza internazionale. Penso che sia un test per noi molto significativo, così come è stato quello con la Spagna. È inevitabile, sappiamo di confrontarci con i migliori e cercheremo, ecco, di fare la nostra partita con grande rispetto, ecco, ma non senza paura. Con grande rispetto e senza paura. Conte è poi tornato a infilare alcuni spilli nel solito discorso: non mi avete fatto lavorare a modo mio. Quale sarebbe il modo suo? Lavorare tutti i giorni con la nazionale, cosa impossibile ad ogni latitudine. Sto leggendo le formazioni delle squadre impegnate nelle qualificazioni sudamericane. Crediate che i CT di Brasile, Argentina, Colombia, Cile possano vedere i loro giocatori così spesso? Conte li voleva allenare tutti i giorni. Avrei voluto testarli alcuni prima di queste due partite con Spagna e Germania, proprio perché volevo rendermi conto di cosa offriva il panorama del campionato. Alla fine ho dovuto fare un riassunto, prendere un po' quelli che in questo momento ho più bisogno, però sicuramente, tornando indietro, penso che sia stato veramente un peccato non aver avuto la possibilità di averli 3 giorni per capire quello che offriva il campionato, se poteva essere inserito in squadra. Ecco, questa è la cosa e il rammarico più grande. Tutti i commissari tecnici della storia hanno fatto così. Tutti i commissari tecnici della storia hanno avuto intuizioni, non hanno avuto grandi margini per fare test. A me vengono in mente così istintivamente Paolo Rossi e Gabrini per il 78, che poi sono diventate le colonne portanti per l'82, erano due giovani emergenti. Non è che Berzotto avesse avuto tutte queste occasioni per testarli, per farli giocare o per allenarli, semplicemente erano intuizioni e furono intuizioni geniali. C'è poi Bonucci che parla del, e ha ragione, questo è il punto su cui si insiste, sul non grandissimo talento di questa nazionale. Quando è iniziato il percorso con il mister, sapevamo tutti quanti che alla base di questo progetto c'era il lavoro e delle idee. Ed è normale che dopo questi 2 anni chi viene in nazionale è contento di venirci, perché sa che c'è un gioco, c'è un'idea, e quindi è anche favorito nell'inserirsi. Da parte nostra c'è sempre stata massima disponibilità e, come ha detto Gigi, il gioco, le idee aiutano anche in questo momento ad una nazionale che rispetto al passato ha meno talento. Questo era Bonucci. Intanto c'è un altro grande allenatore, non commissario tecnico, che veniva, guarda caso, dalla Juventus, che ci ha portato, guarda caso, alla conquista di un titolo mondiale, cioè Marcello Lippi, che poi è rientrato fallendo la seconda avventura, sempre sconsigliabile per tutti. Ebbene, Lippi ha parlato dell'addio già ufficializzato di Antonio Conte. Adesso serve pensare solo esclusivamente all'europeo. Qualsiasi poi sarà il futuro, voglio ricordare che io, quando abbiamo vinto il Mondiale nel 2006, ancora prima che cominciasse il Mondiale, avevo comunicato alla federazione che sarei andato via. E poi abbiamo vinto, vedi che non è molto, non è determinante il fatto che CT abbia già detto che va via, anzi. L'importante è vedere questa squadra che nonostante abbia fatto pochi allenamenti insieme, dà delle sensazioni molto positive. Questo era Marcello Lippi. Allora, io voglio convocare voi su tutti questi altri argomenti, 800240024, tra poco arriva anche Pardo per rispondere alle vostre domande. Ce ne sono altre due di domande che vi voglio fare, o quantomeno di argomenti che vi voglio sottoporre. Invito e convoco tutti gli estimatori di Alvaro Elcino Recoba, che all'età di 40 anni, classe 76, esattamente come Totti, dal Nacional Montevideo, ha fatto sapere, vabbè, smetto di far brillare il mio magico sinistro. Telefonateci o scriveteci 349-238-6666 per un ricordo nostalgico del Cino Recoba. Nel corso di questa trasmissione parleremo anche di un altro argomento che ieri ho accennato, molto curioso, cioè quello di Rafa Nadal che si ritira al torneo di Miami. Ricordo, condizioni proibitive lì, e Nadal affaticato, sofferente, che abbandona la partita e poi in conferenza stampa dice: bisogna cambiare le regole perché questo tennis è troppo fisico. Ma come? Lo dice il Superman del tennis mondiale, quello che ha incarnato il prototipo del Superman nel tennis mondiale. Parleremo anche di questo, se ne avete voglia. Abbiamo tanti ospiti, vi aspettiamo. 800240024, tutti convocati. Tutti convocati. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it vi presenta. Tutti convocati. Noi dove arriveremo non lo so, agli europei. L'importante è che dove arriveremo non dovremo avere rimpianti. Noi entreremo negli spogliatoi e dovremo dire: abbiamo dato tutto. Non dire: è peccato, però se forse, ecco, questo non deve accadere. Non so dove arriveremo, però so che dove arriveremo sarà il massimo dove meritiamo, ecco. Questo Conte, che tra l'altro oggi ha detto un'altra cosa, ha detto, non so se mentendo oppure no, ho 16 certezze su 23 giocatori, quindi 7 biglietti per l'europeo ancora da assegnare. Io saluto Marco Nosotti da Sky, che è lì a Monaco di Baviera. Ciao Marco. Buongiorno, ciao. Buongiorno. Ciao a tutti. Tu ci credi? Buon giorno dopo di Pasquetta. Buongiorno dopo di Pasquetta, e torniamo indietro, anche buona Pasqua. No, sì, così arriviamo a Ferragosto. A Ferragosto andiamo avanti, buon Natale magari, ma vediamo. Senti Marco. Dicevi. No, dicevo, Conte dice: ho 16 certezze su 23, quindi 7 biglietti ancora da assegnare. Mente o dice la verità? Direi che dice la verità. Dice la verità. Direi dica la verità, nel senso che di quei 7 alcuni hanno qualche dubbio in più, credo, però tanto in quei 16 3 sono di i portieri. Benché ci sia Donnarumma in ascesa, ma già il salto grosso l'ha fatto con l'esordio record nell'Under 21, lo stanno seguendo, lo stanno se lo stanno coccolando, per cui i portieri sono quelli. Sì. Ci sono già 13 giocatori in movimento, gli altri 7 vediamo, perché secondo me dobbiamo andare a cercare divisi nei reparti, credo. Sì, credo anch'io. Credo anch'io. Intanto a me intriga un sacco i tre davanti che giocheranno stasera, no? I Bernardeschi, sì. Insigne e Zaza. Con Zaza che è abbastanza seppellito sulla panchina della Juventus, però ha una fame pazzesca, ogni volta che Conte gli toglie il guinzaglio, gli toglie le catene, lui va in campo e fa qualcosa. Bravo. Di importante. Bernardeschi è una delle facce toste più belle del nuovo calcio italiano. E so che ad esempio Nicola Berti, con cui ho avuto diverse occasioni in cui parlare, dice: ma perché non convoca Bernardeschi, che è fortissimo? Eccolo lì. Bernardeschi secondo me è uno dei papabili per quei 7 biglietti. Lorenzo Insigne è il destinatario, credo, numero 2 o 3 di quel biglietto, cioè prima Conte, il primo lo dà a Buffon, non so, il secondo a Bonucci, Barzagli, Chiellini e il quarto Marchisio. Lo dà Insigne. Sì, è il quarto però di Insigne. Sì, questa continuità. Poi ricordate, ci sono ancora due mesi di campionato, e questo è importantissimo. Allora l'idea è chiara. Uno come Insigne, lui ha un'idea chiara soprattutto sugli esterni. I sistemi di gioco che sta provando, in cui si sta evolvendo poi questa nazionale, sono proprio per valorizzare gli esterni, perché il nostro campionato ne è da tanti. Insigne è un signore esterno, suggerisce, fa assist, salta uomo, inventa qualità, ha buona capacità realizzativa, una delle più alte, per cui ecco perché lo vedo. Ci sarà questa prova, perché è una prova da pressione importante, perché l'Allianz Arena non è come dare tutto in allenamento. Anche se tutti gli allenamenti sono importanti, perché Antonio Conte non è che ci sono momenti di se si correte, fate partitella a tema, due tocchi. No, è importante che mettono giù i cinesini durante le esercitazioni. Ho visto personalmente andare a correggere sì. 20 centimetri. Ma poi lui tra l'altro ha detto: in questi giorni c'è chi ha guadagnato terreno e chi lo ha perso, quindi sta attento ad ogni nanosecondo di allenamento. Sì. Poi l'altro aspetto importante, penso, lo stare in questa squadra, il condividere la filosofia di questo gruppo, che è comunque una mentalità offensiva, è un senso di appartenenza forte, è un senso di fiducia l'uno con l'altro. Io darò il massimo per te che sei al mio fianco, perché so che prima ancora che lo faccio io l'hai fatto tu. Ed è una convinzione radicata in questi ragazzi. C'è molta serenità, non ci sono per il momento, disagi, no, li vedo bene. Poi per quello che ci fanno vedere, perché sai, qui è sì, tutto blindato. Siamo, immagino blindatissimo. Figurati agli europei, dovrai arrampicarti sugli alberi, Marco. Non si può dire, ma già lo facciamo. alla nostra età, quindi dobbiamo stare attenti. Però ti dico, sono curioso di vedere, perché i tre là davanti sarà importante. Perché, ad esempio, un Candreva sulla destra in nazionale salta l'uomo, fa il cross, taglia dentro. Queste combinazioni d'attacco che mi ricordano tante volte nel Tridente di Francesco, perché credo sia andato a vedere anche qualche allenamento di Francesco. Lo scambio fra professionisti, beh, ti dirò, mi intrigano quelli là davanti. Andremo, ci sarà, vedremo cosa fa il Sharawi, perché io credo che oggi sarà una staffetta Insigne e Sharawi, perché li vuol vedere tutti e due, ecco. Ma io vorrei vedere Insigne per 90 minuti in nazionale, cosa che non è ancora successa. Perché secondo me Insigne sarà uno dei, ti ripeto, la storia dei biglietti. Insigne sarà uno, per me, degli intoccabili di questa nazionale agli europei. Sì, può diventarlo, perché il salto l'hanno fatto, perché si sono chiariti, si sono capiti. Hanno trovato insieme delle priorità, io credo, in quella chiacchierata a Coverciano. Per cui, sai, lui e Berardi, quel giorno prima di partire, quei giorni prima di partire per l'Azerbaigian, si erano giocati qualcosa. A Insigne è stata data un'altra opportunità. Berardi è una classe infinita, ma non se ne accorge, forse. Non sa dove può portarlo del tutto. Ma sboccerà, perché è un 94. Si mette un po' la testa a posto. E però quel gruppo è tornato dentro lui. Perché quelli che erano in Azerbaigian, Baku, l'ha detto chiaramente Antonio Conte, in quella trasferta, non agevolissima fra l'altro, in quella trasferta sono messe le basi per un gruppo forte. E chi ha fatto bene là, chi ha aderito in toto a quel progetto in quel momento, aveva una corsia preferenziale. Certo, ma senza dimenticare che c'è una caratteristica particolare, Marco, in questa spedizione. Non c'è domani per l'allenatore, quindi non si tratta eventualmente di guadagnare un posto in nazionale per il futuro. È una squadra destinata a vivere per un mese, poi tutto il resto verrà dopo. Cioè non c'è un commissario tecnico da convincere della bontà d'animo, della bontà calcistica. Cioè qui... questo è un vantaggio, Conte non avrà rispetto per nessuno, andrà con quelli che lo convincono di più, e gli altri se la smazzerà il prossimo che arriva. Le chance gli ha date. Ora c'è questa, ora ci sono 2 mesi di campionato, poi quando andrai a fare l'amichevole con la Scozia fine maggio a Malta, oppure la sgambata, nel senso, perché si gioca il 6 di giugno a Verona con la Finlandia, ma i giochi saranno tutti fatti. Certo. E tu voglio capire come uomo e come atleta in quel momento che cosa mi puoi dare come adesione a questa, a questo progetto offensivo, maniacale, metto insieme delle cose. Questo in quattro giorni sti qua, Antonio Conte ma i suoi hanno messo insieme una squadra con un nuovo sistema di gioco, con un nuovo modo di interpretarlo. La cosa che mi stupisce non è bravo sia Antonio Conte, ma bravo anche questi ragazzi, perché se uno deve ripetere 10 volte come si fa col circuito, come si appoggia la palla e per 10 volte la sbaglia, la dà quelli che ha la maglia diversa, e allora capisci che l'esercitazione salta, e allora certo. la meccanicizzazione ecco, della giocata non c'è più, e invece mi ha guadagnato tempo. Sono stati bravi, certo. Vediamo perché poi nel calcio Campo va spia. Vuoi salutare Pardo prima che salutiamo insieme? Pardo. C'è Pardo. Pardo, dove l'avete messo? In una teca di cristallo. In una teca di cristallo, lui è sul telefono. Non mi chiamava, era una situazione così silenzioso. Allora è malato. Ha parlato pochissimo. Sta benissimo, è che l'abbiamo trovato adesso. Pier. Non mi chiamavano, non mi cercavano. Ma che stai a dire? Ho guardato l'orologio, erano le 2:18, dico ma non mi chiamano i ragazzi, ma è successo qualcosa. E poi sento il nodo. Avevi letto il subbuglio, vecchio Pardo. Io sto bene, come stai? Pasqua? No. Tutto bene? Pasqua è tutto bene, sì, abbiamo fatto un po' di lancio. Ti hai mangiato? Abbastanza. Diciamo rispetto alle politiche del 2014, no, mangiare tanto. Ma comunque va bene. Sei magri, vecchio nodo. Guarda che... guarda che ci vediamo, che fai adesso? Che partita fai? Adesso sono qui con gli azzurri. Sì, sono qui, ragazzi. Posto, poi domenica 30 km e 50 euro da Monaco di Baviera, che sarebbe il posto dei no, è impronunciabile, si può dire, dove li ha portati. Provaci, come si chiama? Qui lo dicono benissimo. Un sacco di consonanti. Esatto, vabbè, adesso un po' di rispetto per questo popolo di campioni del mondo, che questa sera dovranno vedersela con l'Italia. Ragazzi, mi sono alzato in piedi, mi trovavo seduto in un noto supermercato attrezzatissimo, fornitissimo del cuore della Baviera. Ora sono in piedi per salutarvi perché devo andare a dire altrettante fregnacce. Vai. Ciao, vai. No, vi voglio bene. Datemi bene. Ciao. Di che ne so, di melanzana durante il collegamento. Di melanzana. Melanzana. Magari bicazzuta, la preferita di Arrigo Sacchi. Ciao Marco. La mia parola è melanzana. Ciao Marco. Ciao. Rimettiamo un po' di ordine. 800240024. Dunque Pardo c'è. Ci sono anche i primi ascoltatori. 800240024 per intervenire. 349-238-6666 per scrivere le vostre cose su WhatsApp o su SMS. Recoba Sinistro Magico. Domanda Teo da Milano. Può essere. Ma anche il passaporto era magico. Vabbè, vecchie storie. Giampaolo, buongiorno. Ciao, gente. Ciao. Chiamo perché volevo parlarti del Cino. Del Cino, è il Cino Recoba. Hai sentito Pier che si ritira. Alla veneranda età di 40 anni, classe 76 come Totti, Nesta, Shevchenko. Sì, tutte la partita d'addio verrà... I diritti verranno comprati da Moratti, che la trasmetterà in casa. A casa sua. A rete unificata. A rete a casa sua, sì. Vabbè, può essere anche che sia così, però nessuno può mettere in dubbio i gol che ha fatto questo, che sono qualcosa di meraviglioso. No, sicuro. Guarda, arrivo a dirti adesso, ho sfiorato il discorso Moratti. Non è che il calcio è bellissimo anche per questo. È chiaro che nella passione che Moratti ha avuto per questo giocatore c'è anche una forte componente irrazionale, nel senso che probabilmente lui ai suoi occhi l'ha visto più forte e lo ha amato di più di quello che Recoba, secondo me, nella sua carriera meritasse. Però è bellissimo anche questo. Il mio amico è Tony Adams e non è stato esattamente il miglior difensore della storia del mondo. Oppure Paul Merson, che è stato un giocatore molto discontinuo, insomma gente che magari tanti nemmeno conoscono. Quindi questa componente qui è bellissima. Julian Dix, che era un vecchio terzino sinistro del West Ham, che amavo molto. Quindi voglio dire, ognuno ha la sua pallini, ha le sue piccole perversioni, come è giusto che sia. Che Recoba avesse dei grandi colpi, no, ma quel sinistro era un'opera d'arte, come dirà Giampaolo, giusto? Un po' come quella che ha fatto a Empoli. Come quello che ha fatto a Empoli, come no. Ma io credo Giampaolo che Pardo stesse commentando quella famosa partita con la Sampdoria in cui entrò dalla panchina, non mi sbaglio? Sì, sì, vero? Guarda che memoria che ho. 3-2. Cos'è che dicesti? Dicesti, ah, fini, partita finita. No, possiamo, no, adesso, adesso sei veramente, perché mi presero abbastanza per il culo, perché però non mi ricordo, forse era il periodo che c'era Gianni, forse era Sky, non mi ricordo. Comunque mi ricordo che questo 2-0 partita in cassaforte venne 2-0 partita in cassaforte, 0-2 era San Siro. Sì, 0-2 venne usato contro di me, però era tipo l'88esimo, se non sbaglio, 2-0. Quindi insomma, capisci che con la squadra che segna il 2-0 all'88esimo, mediamente con i tifosi che già se ne stavano andando. Però sì, da quella partita lì è nato, secondo me, l'etica e l'epica, più che l'epica del pazza Inter Amala, no? Nel senso che una delle partite più pazze della squadra più pazza che c'è. Assicuro, c'era Mancini in panchina, giusto? No, sì. Secondo me non c'era Mancini, no. Era un Inter precedente a quella. Era un che Inter precedente, comunque qualcuno che ha deciso di mettere Recoba. Avevo sicuramente Salvatore Bagni vicino, questo me lo ricordo. Inter Sandare 0-2, 3-2, 2004-2005, quindi... Vabbè, ecco, 82esimo Kutuzov, scusami, 88esimo Martin, 91esimo Vieri, allenatore Mancini, hai ragione, questi sono un pirla io. 82esimo Kutuzov 2-0, 88esimo Martin, poi 91esimo e 93esimo. No, perché me lo ricordo, perché Mancini alla fine delle partite, quando, soprattutto quando era in difficoltà, in pareggio in casa oppure sotto, in quei casi, aveva la tendenza a svuotare l'arsenale, cioè tutte le punte che avevi in panchina, boom, finivano immediatamente in campo. Vabbè, fermiamoci per la borsa, torniamo subito. Pierluigi, stai lì. Partita in bilico, spot per noi. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Si ricomincia. Tutti convocati. Tutto quello che verrà domani, si parla molto, però io ho detto che sono in stand by, ma con la nazionale io non voglio mettere piede. Quello che sarà il mio futuro vuol dire solo Bologna in questo momento, e come spesso dico, il mio futuro passa attraverso il presente. Tutto quello che verrà domani, tutto quello che verrà domani, tutto quello che verrà domani. Come ho sempre detto e come ho sempre pensato e come ho sempre desiderato, rimango qui, rimango in famiglia, rimango in Friuli, rimango in questa terra. In questo momento non credo, in futuro poi tutto è possibile, quindi insomma in futuro se ne riparlerà vedremo. Chi non sarebbe orgoglioso non solo per la nazionale, ma perché credo che sia un punto d'arrivo per qualsiasi allenatore italiano, è abbastanza evidente che ci sarebbe un motivo d'orgoglio. Io penso alla prossima partita, non sono decisioni che devo prendere io, quindi io mi occupo solo di allenare la squadra come ho sempre fatto per 15 anni. Tutto quello che verrà domani. Toto CT. Abbiamo sentito un sacco di voci: Capello Donadoni, Guidolin, Mancini, Ventura e Mazzarri, di cui tra poco parleremo. Proveremo ad avere qualche notizia di ultima mano. Mazzarri che non parla ormai da tempo, come sapete, ma il suo nome per la panchina della nazionale è spuntato. 800 24 00 24 è il numero verde, Pierluigi Pardo collegato con noi. C'è Filippo da Bari che ricorda quella famosa partita del Cino Recoba, che ripeto ha annunciato il suo ritiro alla veneranda età di anni 40. La Samp segnò con Diana e Tonetto. Pardo, lo ricordo perché ce l'aveva al fantacalcio, scrive Filippo da Bari. Bene, bene, bene. Cesare Venezia, buongiorno. Carlo Senza, buondì, ho sentito le cose. Cesare, a noi veneziani ha fatto venire un brivido alla schiena. Un brivido alla schiena, sì, che lo dimentica. Il Maradona della Laguna. Il Maradona della Laguna, ha ragione. Ha rischiato di far cambiare il nome alla famosa piazza San Marco in piazza Sarri. Adesso non esageriamo. No, è stato un grande. Mi ricordo una partita, Venezia-Fiorentina 4-1, 3 gol, Recoba e uno di Micheli. Sì. Stadio siamo tutti senza capelli. Il più... siamo strappati tutti. Il più bello di Recoba come fu? Mi faccia la telecronaca differita, la radiocronaca differita. Due punizioni di sinistra, tutti e due all'incrocio a sinistra del portiere. Bellissimi, bellissimi. Ero lì allo stadio quell'anno. Pardo non c'era invece, mi sa. No, quella te la sei persa. Te l'avrò persa. Allora andiamo, restiamo a Venezia. C'è Cesare, poi c'è Luigi. Luigi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Io anche a lei su Recoba, dica. Ho sentito Cesare e la lacrimuta la facciamo insieme perché sono stati gli anni più belli del periodo di Zamparini a Venezia. Quell'anno Recoba arrivò a gennaio del 99, rimase sei mesi da noi, ma abbiamo subito avuto la sensazione che era arrivato un extraterrestre da qualche altro pianeta, perché lui si presentò in una partita che si giocò in un recupero di un martedì di un Venezia-Empoli. Il Venezia era praticamente il girone d'andata, era con un piede nella fossa. Primo tempo 2-0 per l'Empoli, secondo tempo 3-2 con Recoba che cominciò a deliziarci, e poi lì fu un'escalation. La cosa più importante tatticamente è che il Venezia giocava con un 4-4-2 che Novellino aveva messo in campo, era molto rigido, e dovete adattarlo in un 4-4-1-1 perché Recoba praticamente era alle spalle di Maniero, e noi avevamo la sensazione che quando la palla arrivava sulla tre quarti campo qualcosa accadeva. Sì. Perché noi a Venezia siamo signori per certe cose, ma nel calcio siamo un po' provincialotti, e questo qua non l'avevamo mai visto, una roba del genere in campo, quindi sapevi che qualcosa succedeva. Beh, ricordo per il gol nell'ultima giornata a Sant'Elena alla sua Inter, su punizione, che lì fu l'autografo dell'addio, e a momenti quell'anno andavamo anche in Coppa UEFA grazie a lui. Sì. Quindi un grande ricordo del Cino, assolutamente. A Torino un po' meno, c'è un ascoltatore che mi scrive: anche noi del Toro ricordiamo bene come contava i petali delle margherite. Questo ascoltatore di Torino che non si firma ma scrive via WhatsApp, giocatore talentuoso e umorale, insomma, non è che puoi... ma Novellino aveva trovato le chiavi, perché non l'ha richiamata Palermo per questo finale di stagione, dai. Potrebbe essere, sì, caso Recoba. No, però a parte le battute, Recoba è stato un buon giocatore, un giocatore talentuoso che appartiene a quella categoria dei giocatori che potevano fare sicuramente di più con il talento che hanno avuto. Però poi se le cose non succedono vuol dire che magari hai un talento, ma hai anche lì nel rapporto per esempio con la fatica, con l'abitudine al lavoro, con la routine, cioè pure quello è un talento, pure la continuità nell'allenarti bene è un talento, pure l'equilibrio personale che lui non era un atleta, era un po' culone, come diceva qualcuno, era uno che insomma aveva la tendenza a non fare propriamente vita da atleta, aveva quel piede magico che a Venezia non dimenticano mai. Francesco Bologna, buongiorno. Buongiorno. Dica, di lì Recoba non è passato, però c'è, magari il prossimo allenatore della nazionale. No. No, neanche quello. Non lo so, parlerei del presente. Sì. Se ne vada al più presto, è un uomo ridicolo. Chi? Parla male, Conte. Parla male, quindi pensa anche male. Ottimo. Il fondo del Corriere della Sera di oggi. Forse sì. Un grande allenatore, sicuramente non un grande uomo. Se ne vada al più presto, lasci perdere i pretesti, i valori e tutto il resto. Buona trasmissione. No, Francesco, aspetti un attimo. Se ne vada al più presto, lei è del partito di quelli che dice dopo quello che è successo era meglio cambiare allenatore prima dell'Europeo? No, è un poveraccio, si è comportato come tale. Poveraccio mi sembra tanta roba. Lasciatemi dire, ragazzi, siete fantastici, ma delle volte un po' democristiani. Nessuno allenato la nazionale, delle volte sì, con Conte lo siete, ma vi stimo lo stesso. Nessuno allenato la nazionale facendo l'incazzato il giorno dopo che ha avuto l'incarico. Nessuno. Se ne vada e se ne faremo una ragione. Che dite? Io dico che è totalmente legittimo il suo parere, Francesco. Sì, al di là di quello. Cioè, io più volte ho sottolineato come a me di Conte ha sempre dato fastidio questo suo senso di sopportazione del ruolo che aveva. Certe volte, ma magari sto, ma magari vado, ma non sono contento. Ha sempre avuto questo atteggiamento che a me non è mai piaciuto. Poi sono d'accordo sul fatto che fosse l'uomo giusto in quel momento, e credo anche che l'epilogo della vicenda sia corretto. Parla. Io sono d'accordo sulla sostanza, poi non arriverei a queste conclusioni. Mi sembra troppo poco per poter dire che sia una persona. Sicuramente, lo dicevamo anche ieri a proposito del prossimo allenatore della nazionale, servirà uno risolto, cioè servirà uno che consideri la nazionale una figata pazzesca e non come uno che utilizza la nazionale in attesa di trovare qualcosa di meglio. Anche se questo non è un problema solo della nostra nazionale, ma un problema del calcio di nazionale rispetto al calcio di club. Il fatto che Guardiola, Mourinho, Ancelotti, che tutti gli allenatori più importanti degli ultimi anni siano sulle principali panchine d'Europa, ci dice qualcosa. Sì. Io francamente non faccio fatica, se non riesco a biasimare il cuor suo Conte per il fatto di preferire il Chelsea alla nazionale. No, io neanche. Detto questo, sono d'accordo che in alcune uscite è stato, poteva essere diverso, poteva usare un linguaggio diverso. Per l'esempio del garage era chiaramente travisabile e quindi sbagliato. Insomma, no, ma sai, la sensazione che ha dato spesso è quello, la sensazione che ha dato spesso è quella di comunicare verbalmente oppure no. Io sono qui a farvi un favore, quindi non mi state dando quello che ho chiesto. Con questo senso di supportazione che io l'ho sempre detto, a me ha dato un pelo fastidio, però insomma, ma io questo lo capisco di gusti, e vedo che il tema è caldo, caldissimo, quindi ci sta. Sono d'accordo con te, credo che sia un punto di comunicazione certo. Completamente, completamente sbagliato, e forse volendo anche di troppa sincerità. Guarda, sei troppo sincero nell'esprimere quello che pensi, poi sembra che te la tiri. Però non mi sembra che Lippi sia un paraculo, non mi sembra che Lippi abbia mai fatto questi discorsi. Poi tu mi dirai, Lippi era un allenatore risolto, aveva vinto tutto quello che doveva vincere con la Juventus, eccetera. Questo è che Conte, ragazzi, Conte viene in nazionale perché per una congiunzione di storie, perché si trova senza panchina improvvisamente dopo l'addio alla Juve, e la nazionale ha bisogno di un nome forte, e Tavecchio ha fatto un paio di gaffe niente male, per cui deve riuscire a tirare fuori il meglio che c'è. E secondo me, io me lo ricordo i discorsi che facevamo 2 anni fa, in quell'estate non ho cambiato idea, è stata un'ottima perfettamente, scelta, ma perfettamente. È stata una scelta perfetta in quel momento lì, però è chiaro che è stata una congiuntura, o anche una congiunzione astrale, se preferite, non è stata frutto di un percorso. Certamente Conte qualche mese prima, se avesse dovuto scegliere, si sarebbe andato a accomodare una panchina internazionale, ma lui sbaglia la semifinale contro il Benfica di Europa League, secondo me quella cosa lì incide poi nella sua immagine internazionale. Sì, anche secondo me. Senti, ci fermiamo per il traffico, poi c'è già in linea un amico che è molto vicino a Mazzarri, vorrei sapere quanto invece Mazzarri è realmente vicino alla nazionale, lo scopriremo tra poco. Tutti convocati. Scegli Pantera col TH, scegli l'ERP di Infracomitalia per competere nel mondo. Vi presenta... Tutti convocati. Allora, poi c'è chi esagera come Fabio che scrive Recoba Santo Subito, oppure un altro ascoltatore, il mio mito era Carlos Valderrama, ognuno ha i miti che vuole ed eventualmente che si merita. Io saluto Antonio Finco invece, buongiorno Antonio. Ciao ragazzi, ciao, come buona stai? Giornata, grazie. Come bene, va? Tutto bene, bene, bene, grande PG. Come sta, guarda... Mazzarri? Geolocalizziamolo, dov'è, che fa? Manchester, come sempre, però tornerà a breve, tornerà a parlare, ma non era tanto di questo che volevo parlare, era tanto per precisare, no, la posizione, credo, di Mazzarri, visto che nella confusione si tende a fare di tutt'erba un fascio in questo periodo. Mi sembra che ho sentito e letto di presunti allenatori di prima fascia che, come dire, si sarebbero defilati dalle offerte della federazione, invece di una seconda fascia, invece pronta a sgomitare, no, nel traffico dei numerosi candidati per riuscire a conquistare l'attenzione di Tavecchio. Beh, allora, rimettiamo le cose in ordine. Walter Mazzarri è un allenatore non di primo, ma di primissimo livello, ma non perché lo dica io, perché basta semplicemente conoscere la sua storia e il suo curriculum, piaccia o non piaccia. Ha compiuto un lavoro straordinario a Napoli, alla fine del 2013 era uno degli allenatori più ambiziosi e richiesti in Europa, forse possiamo dirlo, ha commesso un errore di valutazione nell'accettare la proposta dell'Inter a suo tempo in un momento sbagliato. Però nonostante questo, cosa è successo? È arrivato quinto, ha centrato l'Europa League al primo anno, cosa che non è riuscita da altri, e il suo successore sta facendo solo molto peggio con investimenti importanti. Quindi, arriviamo al punto. Tornando a noi, quindi, un'altra cosa che volevo precisare, Carlo, non è affatto vero, come ha voluto far passare qualcuno, che Andrea D'Amico lo stia offrendo alla federazione. Andrea in un'intervista ha semplicemente detto che per caratteristiche caratteriali, di predisposizione al lavoro e persino di modulo, Walter Mazzarri sia l'allenatore più simile a Conte. Questa è la realtà. Poi, se arrivasse un'offerta congrua, ma ripeto, congrua rispetto al valore professionale di Walter Mazzarri, per rispetto nei confronti della FIGC e non come hanno fatto altri, per rispetto del presidente Tavecchio e per tutto ciò che la nazionale rappresenta, è disponibile, sarà disponibile, credo, sicuramente ad un incontro per valutare il progetto, ma con la massima serenità, sì, senza alcuna smania, capisci, di voler arrivare lì in quel posto a tutti, ecco, ma qui, Antonio, toglimi una curiosità, insomma, è un argomento che dibattiamo da diversi giorni, che riguarda allenatori di prima o primissima fascia, Capello, da Capello a Mazzarri a questi qui. Allora, in Federcalcio si è detto: a Conte diamo 4 milioni e mezzo l'anno, questo stipendio non va più bene, chi arriverà dopo Conte dovrà accontentarsi di parecchi soldi in meno. Io ho sempre sostenuto che per un professionista di alto livello i soldi non sono un valore tanto in se stesso quanto sono una misura della sua importanza, una sorta di status. Allora, io domando molto schiettamente: Mazzarri, ma il discorso può valere, ripeto, per Capello, per tutti gli altri top coach che vogliamo, uno come Mazzarri accetterebbe di allenare la nazionale per un ingaggio molto inferiore a quello di Conte? Questo non lo so, io personalmente, magari non lo credo, però penso che ne parlerà, dipenderà molto dal profilo che la FIGC avrà individuato come successore di Conte. Se dovrà essere un allenatore, come sostiene Buffon, che è un allenatore quindi che deve proseguire nel lavoro come la nazionale, forse un club, e che secondo me questo è il futuro di questa nazionale, perché è una nazionale che dal punto di vista tecnico non è fortissima, quindi gioco forte dovrà lavorare di club. Quindi con lavoro sul campo per quanto possibile, e avere un allenatore che sia in grado di dargli questo. Se la federazione deciderà, peraltro, un federale, un selezionatore, come si faceva ai vecchi tempi, allora Walter continuerà senza problemi per la sua strada, troverà un club, tanto richieste ne ha avute anche in quest'anno e mezzo che è stato fermo, anche richieste importanti, e il club troverà sicuramente un allenatore più completo di quando è arrivato all'Inter e motivato sicuramente. Quindi questa credo sia la posizione chiara e ineccepibile che lui, almeno in questo momento, per quello che mi riguarda, so che sta tenendo. Pardon. No, ma io credo che innanzitutto ci sia notizia, nel senso che, insomma, Antonio lo conosciamo bene, è una persona che si occupa della comunicazione del mister in questi anni post-Inter, e quindi, insomma, è un virgolettato, direi anche ufficiale, cioè quindi la sostanza di quello che ci dice, che se dovesse arrivare un incontro da parte della federazione verrebbe guardato con grande interesse, è molto interessante. Come caratteristiche, io sono d'accordo con Danilo, penso che Mazzarri abbia quelle caratteristiche alla Conte, di un allenatore martello, tra virgolette, no? Un allenatore, uno che sul campo dà il massimo e che organizza bene la squadra. Penso che essenzialmente, ma ne abbiamo parlato mille volte, Mazzarri abbia pagato dei difetti di comunicazione della sua esperienza all'Inter, più che dei difetti dal punto di vista tecnico. I risultati dell'ultimo anno e mezzo dimostrano che non era soltanto colpa sua, anche se chiaramente non è che avesse fatto delle cose clamorose, però se guardiamo la carriera complessiva di Mazzarri, è una carriera di alta prestazione. 15 anni di carriera Mazzarri ha fatto quasi sempre bene, e oggi paga probabilmente quegli errori di comunicazione più che di tutto il resto di San Siro, che penso che oggi nell'immaginario degli sportivi italiani rimane purtroppo per Mazzarri molto di più la famosa battuta sulla pioggia e quel finale di partita all'Inter, piuttosto che gli anni straordinari che ha vissuto tra Regina, Sampdoria, Napoli, che sono stati anni veramente di grandissima continuità, per cui è una situazione interessante, sicuramente una situazione interessante. Mazzarri da persona sicuramente intelligente, avrà capito quali sono state le sue mancanze magari in un periodo particolare della sua carriera, con 2000 difficoltà, proprio perché in quel momento, in quella situazione, ci sono state tantissime difficoltà di gestione, la cessione della società e poi tutto quello che è successo dopo. Però è vero anche che questi stereotipi hanno stancato alla grande. Lui tornerà sicuramente a comunicherà nel modo giusto, ma devo dirti che io credo che lui si presenterà e si ripresenterà a breve, completo, più completo di prima, sicuramente voglioso di dimostrare che poi quello dell'Inter è stato un passaggio della sua carriera, che tra l'altro non è stato, al di là di quello che vogliono far passare, ripeto, negativo, perché un quinto posto è stato il migliore risultato, sicuramente degli ultimi anni, e con un allenatore blasonato e molto... Soprattutto con gli investimenti che sono stati fatti dopo, questo va riconosciuto, cioè Mancini ha avuto sia dalla sessione di gennaio dell'anno scorso tra Podolski, Spagnieri e tutti gli altri in questa estate, e questa è anche una qualità di Mancini, questo è anche un talento di Mancini nell'essersi fatto comprare dei giocatori e aver avuto una disponibilità di spesa, è un talento. Però a Mazzarri questi giocatori non gli erano comprati, certo. Perché devo anche terminare, è un talento nel momento in cui, però, quello di farsi comprare i giocatori è un talento nel momento in cui arrivano i risultati, ma se porti una società ad avere gli stessi risultati di prima e con un rosso di 140 e passa milioni, cioè il problema è diverso. Questo un po' sì, possiamo discuterne. Beh, Antonio, aspettiamo te, ma anche Walter, quanto prima, anche a questi microfoni, visto che hai detto che cioè comincerà a rifarsi sentire, ne abbiamo tutti una gran voglia di far due chiacchiere con lui. Io ti ringrazio per Luigi Pardo, ci sentiamo domani, Pierino. Grazie, ciao. GR. Poi torniamo e dovrebbe arrivare da noi Emiliano Mondonico per discutere di mille temi, da Recoba alla nazionale, al futuro della panchina della nazionale, a tutto quello che volete. Vi aspettiamo qui, 800 24 00 24, il numero verde. Forza Azzurri e grazie a tutti. Tutti convocati. Tutti convocati. Eric Oba si ritira, 40 anni, dice basta, il suo magico sinistro lo vedremo nelle cineteche, nelle immagini di repertorio come quella che vi abbiamo fatto sentire con Caressa, che racconta di quel famoso gol su calcio d'angolo, tra molti nostalgici e alcuni che scrivono grande fantasista, giocava 30-40 minuti e poi c'era da chiamare chi l'ha visto. Gabriele, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione innanzitutto. Grazie. Io intervenivo, volevo dirgli se toglie un attimino il tiki taka dalla fascia oraria protetta, lo fa un po' prima. Dalla fascia oraria, questo è un vecchio discorso, ma in fascia protetta. Comunque, sull'argomento Conte, no? Io premetto, sono da Provincia di Bari, quindi l'ho visto con la cavalcata del Bari, sono juventino, quindi sono un contiano a prova di bomba, sì. Esatto. Secondo me sta rischiando di diventare molto antipatico, perché quello che ha fatto con la nazionale, vabbè, l'ha fatto in modo diverso. A Bari, dopo quella cavalcata, è andato via con un accordo già raggiunto. Con la Juventus sappiamo tutti quello che ha fatto. Mm. Con la nazionale pretende cose che lui non dava, perché quando lui era allenatore di club e gli chiedevano i giocatori della Juventus, sì, anche non lui poi diciamo, ha preteso, ha immaginato cose impossibili, la possibilità, quindi, di allenare veramente la nazionale come una squadra di club, di allenarla con continuità, cosa che non succede ad alcuna latitudine, quindi era un'utopia se questo era il pensiero di Conte, oppure era un modo per dire: io la vorrei così, se non riuscirò ad averla così, presto mi farò da parte. E questo è stato ciò che è avvenuto, no? Il lavoro di Conte lo giudicheremo sul campo alla fine degli europei. Prima è impossibile, prima ci sono soltanto possono esserci soltanto delle valutazioni parziali. quindi certamente questo addio era atteso, certamente questo addio è stato strano, è stato repentino, è stato definitivo ancora prima dell'europeo. Però una valutazione sul Conte CT, quindi un voto a Conte commissario tecnico, non possiamo che rimandarlo al termine degli europei. Al di là di simpatie, antipatie, dichiarazioni, garage e tutto quanto il resto. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno, Centa. Senta, le volevo dire solo una cosa a proposito di Conte. Sì. Dal mio punto di vista Conte non doveva proprio allenare la nazionale per quello che ha fatto, per il fatto dello scandalo. Uno. Poi la sua arroganza è una cosa cioè io non lo so come si fa la Lega Calcio, la Federazione a fare tutto quello che lui vuole. La Lega c'entra poco, la Federcalcio ha fatto il possibile, lo ha cercato, lo ha preso, lo ha stipendiato. E poi ci sono altri interessi, ci sono altre dinamiche che governano la vita di una nazionale, Giuseppe. Lui però, sapendo che doveva andare in nazionale, la nazionale non è una squadra di club. Certo. Italia come in tutti gli altri paesi del mondo. L'hanno ringraziato e tutto, e lui si è comportato come si è comportato. Quindi per me personalmente, riallacciandomi al discorso che ha fatto il mio predecessore, sì, penso che non meritava proprio nemmeno di fare gli europei. Quindi lei l'avrebbe allontanato prima dell'europeo. Penso, perché a parte che in Italia non hanno il coraggio di far giocare, penso i giovani, che sarebbe stato un atto di autolesionismo allontanare l'allenatore, cioè allontanare Conte prima dell'europeo. Dovesse vincere l'europeo, poi magari cambiamo tutti giudizio e opinione, perché così va il mondo. Massimo, Treviso. Dottore, buongiorno, ben trovato. A lei. Io capisco che il vostro lavoro è anche quello del top allenatore, più nomi saltano fuori e meglio è, perché ci sono discussioni e si parla. Ma non ho capito, nel giro di 2 anni ne sono saltati fuori di nuovi, il Ventura, il Gasperini, ma è una domanda la mia e non è un grande problema, però è una curiosità più che altro. E improvvisamente in questi 2 anni Guidolin se ne parla molto, ma molto meno, anche se da quello che risulta, se non fosse stato Conte, molto probabilmente sarebbe stato proprio Guidolin. In 2 anni che cosa può essere successo? No, in 2 anni è successo che Guidolin è andato ad allenare in Inghilterra, in Galles per la precisione, è andato ad allenare in Premier League, lo Swansea. Lui stesso ha detto che gli piacerebbe guidare la nazionale, e questo è quanto. Questo è quello che è successo, ma rimane comunque nella lista dei candidati. Una lista di candidati nella quale ogni giorno qualcuno via SMS, telefonate, WhatsApp, eccetera, include Emiliano Mondonico. Ciao mondo. Pronto? Vuoi andare? Come, dove voglio andare? Alla nazionale. Sai che a Pasqua mi è successo una roba incredibile. Cioè sai che io c'ho la cascina, sono qui, si è presentato uno. E mi fa, lei è Mondonico, sì. E lui mi fa, Maramao, perché sei morto, pane e vino non ti mancava, l'insalata era nell'orto. Io l'ho portato nell'orto, ma guarda che l'insalata non l'abbiamo ancora seminata. E lui si è messo a mettere l'insalata nell'orto. Sono uno spettacolo mai visto. Un attimo dopo arriva mia moglie, sì, che mi dice, chi è? Poco ti sei presentato qua. E questo qui la guarda. E intanto c'è una gallina che viene rincorsa dal gallo. Sì. E lei gli dice, la gallina coccodè spaventata in mezzo all'aia, tra le vigne e i cavolfiori mi sfuggiva Gaia. Ah, io penso a lei e guardo te e so già che tra poco avrai bisogno di me. Io gli ho detto, senta, guarda che sono sposato 40 anni con mia moglie e non siamo mai stati tra le vigne e i cavolfiori, ma siamo stati sulle stradine, avevo il GT Alfa Romeo con i ribaltabili, e perciò mi sembra che lei sia un po' fuori. No, così lei non sa apprezzare, di quelli là se n'è andato. Va bene. Ho voluto dirvi questo perché mi è sembrato una persona, ma lei era abbastanza socievole, però sì, tira fuori tutte queste robe qui. Hai chiamato un'ambulanza poi? No, non l'ho chiamato, perché no. Mi sembrava, cioè era anche simpatico, sì, per carità. Poi mi sembrava di averlo già visto, nel comitato lì etico della Serie B. Ah. Però sono stato un po' indeciso, anch'io sono un po' invecchiato. Dimmi adesso, ditemi voi chi vi ho raccontato della mia avventura di Bassa, no. E non è finita perché c'era anche un cane legato alla catena, che lui si è incazzato perché è legato, è un leone, un barbone, ma non è legato, sta mangiando la filza di Lugani, che è beato lui, messo mondonico. Vabbè, ditemi. Senti, ma vuoi andare a allenare la nazionale? Andresti? Io non vado a allenare la nazionale. Sei peggio di Capello. No, assolutamente. Ti dirò che un ottimo rapporto con tutti, anche con il presidente Tavecchio, però in questo momento è bene che la nazionale trovi un allenatore. Chi? Un allenatore. Chi? di grande spessore. Non so come andranno gli europei, ma sia che vadano bene che vadano male, è chiaro che chi arriva al posto di Conte deve avere tantissime cose in più di un allenatore normale. Chi? E perciò ecco perché Emiliano, fammi un nome. Ti faccio un nome? Sì, dai. Io ti dico, io fossi il presidente della Lega Italiana, farei di tutto per prendere Mancini. Mancini? Perché secondo me Mancini è l'unico che fa sia l'allenatore che il manager. Questo è vero. Perché è chiaro che in questo momento bisogna anche essere manager. In questo momento dove sta cambiando il calcio? Non è più che sta cambiando perché è di modulo, perché sono tutti avanti o tutti niente. No, ma perché l'allenatore deve essere manager. E in Italia... purtroppo sono pochi, ecco perché ti ho fatto il nome di Mancini, perché avrebbe proprio la figura, la struttura dell'allenatore manager. E secondo me dopo Conte ci vuole, perché che se ne dica, Conte non so se è soprattutto manager o allenatore, però sono sicuro che è tutte e due. Sì. E perciò è chiaro che chi arriva deve essere ancora di più. Sì. Perché c'è il fatto, sai Emiliano, sai qual è il problema? Che io e Pardo ne abbiamo parlato spesso nei giorni scorsi. Molto spesso gli allenatori, comunque giovani, comunque ancora sulla cresta dell'onda, comunque ancora richiesti dai grandi club, eccetera, eccetera, fanno un po' fatica ad accettare un incarico come quello della nazionale, perché lo vedono un po' come una diminuzione. Ad esempio, qualunque grande allenatore sulla piazza, da Ancelotti a Mourinho, possiamo fare una lunga lista. Fa fatica a, tra molte virgolette, seppellirsi in una situazione in cui smetti di fare l'allenatore. Ma oggi ho letto anche l'intervista di Sacchi, d'accordo con lui, ma noi ne avevamo già parlato 15 giorni fa, quando non vuole essere il più ricco del cimitero. Sì. E perciò, diciamo, se fa l'allenatore della nazionale, è chiaro che devi anche saperti adeguare sotto questo punto di vista. Il discorso economico non deve centrare più niente. Ma no, io penso che è proprio la struttura. Cioè, tu devi sapere tutto di tutto, devi guardare tutto. Il manager ha i suoi uomini a disposizione, tu devi avere i tuoi uomini, perché il lavoro importante non è quello che fai quando convochi la nazionale, sì, ma quello che fai quando devi mandare fuori i convocati. Certo. Cioè è lì che devi essere presente, che devi essere pronto, che devi essere sicuro di convocare uno invece di un altro. Perciò devi avere a disposizione uno staff di grandissima qualità. Certo, sì. Ecco, io dopo quello poi rimani 3 giorni e cosa fai? Fai fare due partitelle e poi... Oggi, stasera, giocheranno 3 di 70 anni o 3 che messi assieme fanno 70 anni? Perché anche quello l'ho capito poco. Però è estremamente, sì, positivo. Sostituire Conte non è facile. No, difficile, però, difficile. O andiamo su Allegri. Ma Allegri non ci va, ma so che abbiamo diverse idee sul part-time. Io sono favorevole al part-time in nazionale, so benissimo, perché ne abbiamo parlato altre volte, che tu non lo sei. Però potrebbe essere una soluzione per comunque avere un grande allenatore che si toglie i suoi sfizi nei club e poi allena la nazionale, non ti dico a tempo perso, ma allena la nazionale dedicandole il tempo che serve. Però devi sostituire Conte. capisci, è lì, perché l'allenatore, cioè se Conte andasse via perché è stato come altri esonerato, è chiaro che è più semplice, certo. Prendi l'opposto di Conte, certo, e certo. Chiaramente la nazionale riuscirà a dare il meglio di se stessa, come avviene nei club, no? Quando certo. cambi allenatore prendi quello che è l'opposto, se hai il sergente di ferro prendi l'amico dei giocatori, e perciò, ma in questo momento col lavoro che ha fatto Conte, anche avendo alle spalle una federazione che al di là delle loro qualità, cioè lui sembra che sia il comandante con la K maiustra, certo, è il comandante. In questo momento secondo me non devi prendere il soldato semplice, hai ragione, devi trovare un altro comandante. Su questo ecco sono d'accordo. T'ho fatto il nome di Mancini. Su questo sono d'accordo. T'ho fatto il nome di Allegri, che come l'ha sostituito in silenzio alla Juventus, riesce a farlo anche in nazionale, perché è difficilissimo, credimi. Chiaro. No, Conte, no, ma non ho dubbi. Conte, il ruolo di Conte è così diverso, che è difficile proprio da sostituire, perché i ragazzi sono stati messi in formazione, comandante cioè li mette in riga, certo, capisci? Certo. Sì, no, questo è chiarissimo. E perciò anch'io non lo so se c'è un altro comandante o se è meglio ritornare alla semplicità del ruolo, però si rischia moltissimo. Ecco perché ti ho fatto questi nomi. Ma io sono d'accordo, no? Comunque sul profilo, poi sui nomi possiamo discutere. Grazie Mondo! Oh, grazie, se arriva ancora quel signore lì, fammi sapere. Magari mi dice qualche canzone, ve la faccio avere, magari sapere. Voi lo conoscete meglio di me. Va bene, fammi sapere che facciamo una telefonata. Mi ha anche disturbato, mi ha lasciato un CD e ti dirò che cavoli, c'è un cantante che è mica male, Davvero? E anche lui le parole ti fanno riflettere, però non può mettersi a mettere l'insalata nell'orto, no, però me l'ha messa adesso, anche al contrario. Oh, amico mio, Ciao, va bene. Ciao, ti abbraccio, bene, Mondonico. Ciao Emiliano Mondonico. Allora, ascoltatori, Massimo. Salve a tutti, buongiorno. Salve a tutti, buongiorno. Certo, parlare dopo Mondonico è sempre molto difficile. Anche perché lui è un gran maestro di calcio, però è di parola, sono d'accordo, però io sono più per un allenatore come Ventura in nazionale, perché ricordatevi che le Coppe del Mondo, a parte Lippi, le abbiamo vinti con allenatori che non hanno fatto grandi campionati con le squadre di club, e con Azeglio Vicini avevamo secondo me la migliore nazionale che abbiamo mai avuto. Azeglio Vicini veniva da un percorso federale, lo ricordiamo, e la via del percorso federale è stata rievocata, secondo me è un po' blasé, cioè un po' passata di moda. Io sono invece d'accordo con Mondonico, al di là di nomi poi possiamo farne tanti, sul fatto che alla nazionale serve un allenatore che possa essere, poi il profilo lo scegliamo, che possa essere Ventura, che possa essere Guidolin, che possa essere Mazzari, che possa essere Capello, che è quello che per molte ragioni vedrei meglio di tutti gli altri. Vabbè, poi lo vediamo, però secondo me serve un allenatore in grado di proseguire il discorso, ma perché questo è il trend attuale praticamente in tutte le nazionali del mondo. Luca, buongiorno. Ciao, sono Luca, chiamo da Bologna, però sono di origine leccese, per cui chiamo per delle considerazioni su Conte, perché ho giocato contro quando ero un ragazzino, lui giocava in primavera, sì. E posso dirvi che la sua fame di vittoria, la sua fame di voglia di vincere ce l'ha da quando era un ragazzino. A Lecce lui non è, per quanto sia un giocatore illustre, lui a Lecce non è amato perché ha osato gioire dopo un gol fatto sotto la curva nord a Lecce, ma lui veniva da un lungo infortunio, questa cosa la città non gliel'ha mai perdonata, ma lui è andato sempre avanti con questa rabbia, con questa rabbia di vincere, per cui molti parlano di sua arroganza, in realtà la sua è una fame interiore, psicologica, sì. Perché noi eravamo dei ragazzini, lui giocava in primavera e comunque ci vedeva più deboli, ma non gliene fregava niente, voleva semplicemente vincere, sì. Poi la sua è anche una consapevolezza. Guardi, io le dico, la prima volta che ho visto Conte giocatore, giocava nel Lecce con la maglia numero 10 a San Siro, non ricordo se contro l'Inter o contro il Milan, con una enorme ginocchiera che praticamente gli copriva tutta la gamba, reduce dall'infortunio di cui lei ha detto. Giocava mezzala, giocava trequartista, e quella fame di vincere la vedevi già subito in campo, pur non conoscendole, nonostante quell'enorme ginocchiera che tu dicevi. Ma com'è possibile che uno possa giocare a calcio conciato così? Questo lo sappiamo, insomma, è sempre stato uno con quelle caratteristiche e ce l'è ancora adesso. Vorrei per chiudere una battuta su un argomento che mi sta a cuore, perché non riesco a capirlo, quindi vorrei un'interpretazione autentica. Non so se abbiamo di nuovo le parole dell'altro giorno di Rafa Nadal, credo di sì. Very, very bad feelings, but even with very bad conditions, I finished a lot of matches in my career that because I didn't want to retire it, like Australian Open a couple of times, a few more. But today I was suffering for my health, so I didn't know what's going on, so I decided to stop because I was not sure that I can finish the match that way. Quindi stavo soffrendo per la mia salute, non ero sicuro di concludere il match, non stavo bene, ho preferito abbandonare. Poi ho aggiunto: il tennis sta diventando uno sport troppo duro, troppo fisico, andrebbero cambiate le regole. Ma come? Superman dice cambiamo le regole. Paolo Bertolucci, buongiorno. Buongiorno. Me la spieghi questa? È quello che dicevo io da tempo, nel senso di cambiare le regole, perché altrimenti gente come me non potrebbe mai calcare i campi da tennis. No, ho scritto un tweet in cui scherzando ho detto... Ma fa ridere, no, che lo dica sì, Superman. Sì, appunto, ho detto cos'è, un pesce d'aprile questo. Esatto. Però insomma il discorso era in un contesto più ampio. D'altronde lui, come dire, ha parlato anche di un discorso appunto fisico relativo al fatto che i giocatori sono sempre più alti, sempre più grossi, sempre più robusti. Però lui mi sembra che robusto lo sia abbastanza. Alto è 1,86, quindi insomma ne conosco sinceramente di meno dotati da questo punto di vista. Certo è vero che passare da clima secco a clima umido 90%, 30 gradi non è assolutamente facile, sul cemento è complicatissimo, però lui diciamo, e tanti come lui, vedi Djokovic oggi, ai giorni d'oggi, hanno, come dire, affossato decine di colleghi proprio sotto questo punto di vista. Ma no, sembra comunque curioso, al di là, lasciamo un attimo in un angolo la Sharapova, le accuse di Nadal durissime alla Sharapova, lasciamo per un attimo in un angolo tutte queste cose, però sembra curioso che colui che ha rivoluzionato il tennis mondiale con i muscoli, sì, venga a dirti non ce la faccio giocare, per favore facciamo uno sport più, più morbido. È vero, farlo più morbido sarà duro e difficile, perché riescono ormai a giocare 48 settimane all'anno, come ho detto prima, saltano da un continente all'altro come piloti sì, degli aerei di linea, giocano, finiscono la sera a mezzanotte l'una con un certo tipo di umidità, il giorno dopo a mezzogiorno e mezza sono a 12 ore di distanza, sono in finale con 30 gradi sotto il sole per la finale del torneo, abituati a tutte queste condizioni, poi è normale che il fisico e la mente vengono usurati e magari la carriera invece di durare 10-12 anni dura 8, 7, sì, 6. Sì, sì. E Nadal, che ha iniziato molto presto, diciamo a 18 anni, ha 10 anni di carriera piena sulle spalle. Teniamo presente che anche quando lui nei tempi d'oro vinceva 6-2, 6-2, 6-2, 6-3, dal punto di vista fisico e mentale spendeva moltissimo. Quindi a un certo punto la pila, soprattutto quella mentale, si scarica, la benzina finisce, sì, distributori in circolazione non ne vedo aperto. Torniamo alle racchette di legno, Paolino. Torniamo alla vecchia racchetta di legno, diamola a Nadal e a Djokovic e vediamo cosa sono capaci di fare. Beh, sarebbero tra quelli lì sicuramente Federer potrebbe allungare bravo, e pettinarli di nuovo tutti. Grazie Paolo, grazie a voi, ciao, un abbraccio a Paolo Bertolucci, Giorgio De Luca il nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia, Federico Bini in redazione. Ci sentiamo domani, tutti convocati alle 2, signori, alla prossima.